Sì. Senti questa, fra. Baptiste MC, sì. Mike FC, uh-huh. 2014. Da lontano arrivo come un mato rapo attacco, sì. Ti picco forte faccia tipo pugno gancio, punto sempre la faccia tipo getto cancio. Iso green e campo ti portano a spasso. Mi chiami ma mi dici che non c'è campo, no. Lanciamo questo disco in fuori campo. Nel rap il talento è sempre il risalto. Baptista in sì sul beat che spasso a gancio. Rime metti che ficcheranno i polmoni. Sto pezzo provoca allucinazioni, state buoni. Adesso prendi e tu vai fuori dai coglioni. Ne ho le palle piene dei tuoi soldi e macchinoni, sì. Dicevi che ero troppo dolce per l'hip hop. Dolce con le palle, chiamami profitto e flow. Non chiedermi perché lo faccio e perché canto. Sono solo preso bene dell'hip hop, mai stanco. È importante sapere chi c'è al tuo fianco. Tranquilli raga, qui c'è Mike from campo. Metri che in rialzo, lui ti porta a spasso. Giocati il tuo asso, non guardare in basso. Fino ad un secondo fa urlavi come Papalardo. Tu come una gatta sei andata troppo a largo. La Rambo ti lascio notare in mare di fango. Tipo film, tipo fandango. Me la ballo tipo tango. La scimmia dell'hip hop tipo rango tango. Lui ti ho messo all'angolo. Se a zero capotto complotto. Stai sotto, ora passi sotto il tavolo. Di stronzi come te in giro è pieno e tragico. Arrivo dagli inferi con Caronte navigo. Sto pezzo tipo Slevin, fatto criminale con il diavolo. A nord della città, hip hop e libertà, sì. Ascolti questa track, la tua testa non si ferma. La pompi in macchina, roba che incanta fra. Colpi come Van Damme, bam, tipo una sberla. A nord della città, hip hop e libertà, sì. Ascolti questa track, la tua testa non si ferma. La pompi in macchina, roba che incanta fra. Colpi come Van Damme, bam, tipo una sberla. Faccio migrazione, sco bombe con forme stilose, sì. Monodose, tieniti più forte, prendi il volo come un jumbo. Lo sai che non cambio, la detonazione manda in aria la traccia. Chiamami Rambo, yeah. Pronti all'assalto, coppia in risalto. La prendo con sciallo, vai giù dal piedistallo. Non è che chi si droga e fa rap, un poeta maledetto come Charles Baudelaire. Sai com'è o oh no, chi fa l'idolo è ridicolo. Non lo comprendo, geroglifico, sì. Lassativo, fa cagare anche uno stitico. Oh, questo è Mike, tonnellate di rime condite, sì. Da flow inacidito, da rabbie represse, compresse, che tramuto in fotta per chiunque vuole. Yeah. Tutti fanno a tutti i costi tipi loschi. Loschi. Riconosci sulla traccia questi mostri. Ci trovi belli tosti, come cinghiali dei nostri boschi, yeah. Made in Liguria, sul beat una furia. Metti la cintura sulle mani ad ogni chiusura, yeah. Tutti vogliono insegnarti come essere. Tutti a rincorrere il miraggio del benessere, tutti a tessere le lodi dei campioni. Io se vinco è perché ho imparato a perdere, yeah. E non smetterò mai, finché la musica è un effetto doping, yeah. Se campo fosse Gotham, noi saremmo Batman e Robin, yeah. A nord della città, hip hop e libertà, sì. Ascolti questa track, la tua testa non si ferma. La pompi in macchina, roba che incanta fra. Colpi come Van Damme, bam, tipo una sberla. A nord della città, hip hop e libertà, sì. Ascolti questa track, la tua testa non si ferma. La pompi in macchina, roba che incanta fra. Colpi come Van Damme, bam, tipo una sberla. Allora di voltare pagina, cambio capitolo, sì. Capito no, sono scivolato, capitombolo. Ora mi altro, voglio togliermi lo sfizio. Sì, non l'hai capito no, aspetta, riparto dall'inizio, sì. Arrivo su sto pezzo sensazionale, ti faccio muovere i fianchi, sensazionale. Non è legale, sto pezzo è reale. Questo flow è si sa da nazionale, oh, oh. Ti fa sbarellare quando c'è Battista in sì, sì. Flusso lessicale condito da queste skills, uh-huh. Non ci sentiamo chissà chi, altro che VIP. Ci sbagliamo anche col Pives che ci dice bella lì, yo. E con chi si sente sta roba potente, rovente. Tipo roventa, zero rumenta. Flow che spaventa, solo per chi non si accontenta. Stufo di cantare mentre tu mi giri attorno. Giro, giro tondo, faccio cascare il mondo, sì. In un secondo, guardami sullo sfondo. Guardami nel profondo, alle volte confondo. Ho già toccato il fondo, sono risalito. Se mi ascolti come Max, tu sei un mito. Se non mi ascolti ti mostro il terzo dito. Gustati questo pezzo come cibo squisito. Potrei fare un CD solo di rap, present, ma starmi a sbattere per quattro chiacchiere non è nel mio carattere, no. Amo quest'arte e ci sballo con chi si prende bene. Quando siamo insieme, c'è la che zero sbatti. Smuoviamo la valle e ci diamo dentro come matti. A nord della città, hip hop e libertà, sì. Ascolti questa track, la tua testa non si ferma. La pompi in macchina, roba che incanta fra. Colpi come Van Damme, bam, tipo una sberla. A nord della città, hip hop e libertà, sì. Ascolti questa track, la tua testa non si ferma. La pompi in macchina, roba che incanta fra. Colpi come Van Damme, bam, tipo una sberla.